dove mi porterà la vita. Guarda il mangiafuoco tutto spettinato, chiude la bottiglia e manda un bacio. Bacio della sorte, bacio che promette che ritorna e non è mai tornato. Oggi un nuovo giorno, oggi si riparte, scendono le tende, cadono bulloni. Pronti a rimontare case naviganti, il mare, il fango tra l'asfalto e il sole. D'elefante, guarda e sputella, ma piedi neri, scimmie e noccioline. Carovane lente, viaggiatori persi sotto il trucco, non c'è mai un confine. Vendo fantasia, vendo un'allegria in equilibrio sopra i vostri occhi. Gioco e vado via, tutti mamma mia, vivo sopra un battito di mani. Dove mi porterà la vita? Prometti e poi lampade a petrolio, occhi e bocche aperte di bambini. Tutta questa vita fatta camminare sopra lunghe vecchie cicatrici. Troppi brevi amori per eterni cuori, dove batte sempre poco il sole. Dove la poesia non la puoi toccare, ma portarla via per ricordare. Giro, vivo e danza in Gesù. Tutti a tempo fumano, sorrisi, e tutti in un secondo sognano e si sentono più vivi. E guarda come sputa il fuoco e che coraggio il mangiafuoco. Guarda l'elefante come grande, dai che costa poco. Giro, vivo, in equilibrio soffrirò. Buon pomeriggio e bentrovati. Oggi mercoledì 27 febbraio, 15:19, come sempre, come al solito. Jerry è in ritardo, però vabbè, dai, tranquilli, recuperiamo subito, subito dopo. Oggi con me, anche oggi, devo dire, il nostro carissimo e simpaticissimo e anche bravissimo, perché devo dire, la scorsa volta se l'è cavata abbastanza bene. Voi che ne pensate, cari amici? Ciao Giuseppe, buon pomeriggio. Ciao Jerry, grazie, buon pomeriggio a tutti. Come stai? Molto bene, devo dire. E allora, com'è andata la puntatina? So che hai riascoltato. Ho riascoltato, diciamo, ho sentito le mie papere, quelle che insomma sono inevitabili. Vabbè, ma quelle fanno parte ormai, chi mi ascolta sa che io le faccio spesso, quindi automaticamente se le fai anche tu va bene uguale. Fanno parte del gioco, insomma. Sei perdonato anche tu, perché ormai grazie. Sono abituati alle mie. Allora, cosa facciamo? Diamo i numeri. Cioè, Giuseppe, dai, diamo i numeri. Io do sempre i numeri. Allora, inviateci un SMS se volete, insomma, interagire con noi al 335-5637-251. Sì. Oppure telefonate semplicemente qua, semplicemente insieme, a 0921-92-32-92. Naturalmente vi risponderà o Jerry o Giuseppe. Una dei due. Oppure abbiamo oggi anche un ospite, abbiamo Chiara, la segretaria, sì, che farà da segretaria, così risponderà alle vostre chiamate. Benissimo. E poi ancora potete seguirci in diretta streaming sul nostro sito, che è il www.crmepiradio.it, o ancora sul nostro portale Facebook, da dove poter fare una richiesta, una dedica, messaggiare con noi, quello che vi pare. Noi siamo qui pronti, disponibili. Esattamente, quindi interagite con noi. Sì, sì, sì, mi raccomando, fatevi sentire. Pomeriggio è lungo, ricordiamo l'appuntamento di Happy Cinema. Esattamente, quindi tra poco avremo a che fare col cinema, avremo le tre posizioni dei film più visti durante il weekend. Mm-hmm. Avremo anche una recensione da parte della nostra Caterina Terranova da Palermo. Insomma, per tutti gli amanti del cinema, rimanete in nostra compagnia, veramente. Mi raccomando, si prospetta un pomeriggio, devo dire, all'insegna del divertimento, di tante curiosità, tante notizie. Rimanete con noi e noi partiamo subito! Vai! vieni. Ed eccoci qua, siamo sempre qua con voi, insieme a voi. Adesso continuiamo noi con la bella musica, naturalmente arriva lei, la grande Laura Posini, che tra, da pochissimo è diventata mamma di una splendida bambina. Auguri Laura! Ne parleremo dopo. A te che perdi la strada di casa, ma vai dove ti portano i piedi, e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradicie. A chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé, a chi supplica e poi se ne dimentica. Non ha un segreto da sussurrare, ma una bugia da sciogliere. A chi non chiede perdono, ma lo avrà. Benvenuto a un pianto che commuove, a un cielo che promette neve. Benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide, a chi scambia i suoi consigli con i tuoi. Benvenuta alla sua piccolina, che dicevo poco fa è diventata mamma della piccola Paola. L'ha auguri chiamata Laura, ma come si chiama la piccolina? Paola, l'ho ah, detto. Ah, Paola. Che fa? Non senti? No, sei no, sordo? Sto dormendo, guarda, sto facendo il pisolino dorme. Ancora. Se fosse qualcuno, no, che in questo momento volesse sì. venirci a trovare, a portarci anche un caffettino. Esatto. Così Giuseppe si sveglia che mo sta dormendo. Siamo qui pronti ad accettare il caffettino. Sì, perfetto. Molto bene. A proposito di Laura Pausini, Giuseppe, stai attento, sì? Che do una bella notizia. Ah, diciamo che bello. Sono passati ben 20 anni dal 1993, anno in cui Laura Pausini vinse il Festival di Sanremo nella categoria giovani con La Solitudine. Te la ricordi? La ricordo, la ricordo, sì, sì. Marco, avevo... se n'era andato. Sì, se n'era andato, ma lei... è ritornato. Lei aveva sto taglio di capelli che non si poteva guardare. Un vabbè. Caschettone. Sì. sì. Un casco, ovviamente. Un casco, quello che si mettono per le moto, insomma, una cosa del genere. Cattivo, che sei cattivo, mannaggia. E diciamo che la cantante offre in esclusiva su iTunes una versione speciale del brano che l'ha resa celebre in tutto il mondo in un unico medley in italiano, spagnolo ed inglese. Ed è la prima di varie iniziative che nel 2013 ricorderanno questi anni di carriera dell'interprete. E dal 26 febbraio parte la Download Week del singolo, appunto, La Solitudine, La Soledad, Loneliness, Medley 2013. Brano quindi che racchiude le tre versioni di questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato, riascoltato sempre. Io ho ascoltato la versione in spagnolo ed è molto bella. Quella in inglese ancora non l'ho ascoltata. Io preferisco quella italiana. Vabbè, certo, tu preferisci i classici italiani. I classici. Marco se n'era andato via, mi sa che adesso dopo 20 anni si spera sia tornato. C'è stato qualcuno che ha fatto la battuta perché assieme a Marco Mengoni, appunto, durante il Sanremo di quest'anno, ha detto: ecco, Marco è tornato. Perfetto, bene. Hanno fatto la battuta. Bene, brava Laura Posini. E allora noi continuiamo, andiamo avanti con sempre con la bella musica. Naturalmente sempre qui in diretta su CRM Happy Radio. L-U-V pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. L'influenza fa cambiare le mie fantasie, le modifica e poi le rimodella d'arte. Non sono stato mai capace di decidere cosa meglio sia e cosa definire male. Mi servirebbe sapere se la l'altra notte quando hai detto che sei stata tanto bene. Eri sincero, pure avuto solamente una parentesi di un'ora pure scarsa. E non mi va di privarmi della calma e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. Servirebbe sapere la strategia per aggirare tutte quante le barriere, o quale sia la strada giusta per giustificare il male ed alleviare il dispiacere. Mi servirebbe saperlo quanto prima e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. E farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. E farmi male continuare ad aspettare il tuo continuo andirivieni concettuale. Forse alla fine mi piace un po' così, soffrire e farmi abbandonare qui. Ti piacerebbe sapere le contromosse utilizzate per lenire le mie pene e sopperire finalmente alla tua luce intermittenza per dotarmi di pazienza. In fondo mi è piaciuto a me una dita, allora fammi male. Ma quant'è carina questa canzone, che tra l'altro è appunto il vincitore del Festival di Sanremo di quest'anno, 63esima edizione del Nella categoria giovani. Esatto, bellissima, mi piace, io l'ascolto sempre ultimamente, proprio ce l'ho sempre messa lì che metto ad ascoltarla perché mi mette piace. Mette felicità. Molto. Esatto. Bring the action. When you have this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us, all eyes on us. See the boys in the club, they're watching us. They're watching us, they're watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us, all eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh. Scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with Will I Am and Britney, bitch. Bring the action. Rock and roll, everybody let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, ay, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow. Blow, blow, ay, yo. Rock it out, rocking out. If you know what we talking about. Burn it up and burn down the house. Half, half, ay, yo. Turn it up and gon' turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, bring the action. When you hear this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying Oreo, Oreo, Oreo. You are now rocking with Will.i.am and Britney, bitch. This night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, forever, forever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout. Vede il mare senza andar lontano, una come te ha una valigia per le scarpe e sembra un aeroplano. Una come te non si avvicina per ballare, guarda da lontano. Una come te, se corre inciampa ma non cade, chiede la tua mano. Una come te, per una rosa può morire, solo perché ancora non sa togliere le spine. Una come te, mi piace da morire. Cinema d'estate, dorme sul finale, una come te, sotto un temporale. Ma una come te, come una rondine d'aprile, vola solo quando ha un orizzonte da inseguire. E una come te, mi piace da morire. Sola si pente, si sposa, ma poi si innamora per sua vita. Una come te. Una come te. già una come te. Una come te, chissà, chissà se l'ha trovata, chissà. L'ha trovata secondo te? Una come te non ce n'è. Sì, grazie. Geri, veramente. Grazie, gentile, sì, ok, ti pago dopo. E a proposito di Cesare Cremonini, beh, dopo il grande successo del Cesare Cremonini Live 2012, capace quindi di registrare il sold out in tutte le date nei mesi di ottobre e novembre, Cesare tornerà ad esibirsi con uno straordinario concerto che si terrà il 22 luglio, quindi tra poco quasi. Wow. Quasi. Sì, ma manca ancora un po', dai. Pochino, solo un pochino. Un ritorno importante per il cantante che su quel palco vinse il Festival Bar 2000 con i Luna Pop e la loro Qualcosa di Grande, che era bella questa, è bella, no, era è bella questa canzone. Sì, sì, bellissima. A me ricordo. Piacevano assieme i Luna Pop, proprio tutti assieme. Erano un po' strani, era un strani? Gruppo un po' strano. Dici? Sì, mi ricordo Cremonini con i capelli pink. Gialli, gialli, biondi? No? No, pink mi sa. Pink? Sì, sì, mi ricordo un Cremonini pink. Io li ricordavo gialli, no, forse sto sbagliando gruppo. I Beehive forse con Cristina D'Avena. Può essere. Comunque, Cremonini torna così nel prestigioso anfiteatro, a distanza di 13 anni, sarà un concerto fantastico, ha commentato, in una location unica per le mie canzoni. Il mio desiderio è quello di festeggiare all'Arena di Verona quest'anno di musica, per me importantissimo, offrendo al pubblico che verrà a sentirmi il miglior show possibile. Torno in arena dopo molti anni e molta strada percorsa. E sì, ne ha fatta strada, strada, in effetti, dai. Sì, tanto. Poi adesso è solista. Sì, bravissimo, le sue canzoni molto sono molto belle, insomma, anche molto romantiche, insomma. Poi un cantautore, insomma, scrive molto sul suo, sulla sua vita personale anche, no? Sì, sì, sì. Ricordiamo inoltre che le prevendite per il concerto del 22 luglio all'Arena di Verona saranno aperte a partire da giovedì, quindi da domani praticamente, per cominciare. Da domani, sì. Cominciate a, a prenotarvi. Per tutti i fan, prenotatevi il biglietto, insomma. Prenotatevi, prenotatevi. Tu ci andrai? No, eh? No, non credo. Non ti piacciono tanto? No. Cremonini è un artista molto bravo, però insomma non lo seguo tanto. Lo so che la tua preferita è Annalisa Scarrone. Ormai Annalisa questo, Scarrone, lo so, vengo a trovarti io, lo sanno, dovunque. E lo sanno tutti i nostri amici all'ascolto ormai, l'hanno capito. E noi continuiamo, andiamo avanti naturalmente con la bella musica. Che dici, sì? Sì, dai, Beyoncé, What I Don't Told Love Me. No, honey, better sit down and look around, 'cause you must have bumped your head. And I love you enough to talk some sense back into you, baby. I hate to see you come home, me, the kids and the dog is gone. Check my credentials, I give you everything you want, everything you need. Even your friends say I'm a good woman. All I need to know is why. Why don't you love me? Why don't you diretta su CRM Happy Radio, semplicemente insieme, con Geraldina Turdo. Notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po'. Ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua. Io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Di fatto sono sola qui, sono qui senza di te. Molto divertente, appunto, mette felicità. Tanta, devo dire. Tanta. Allora, su questa canzone volevo salutare un amico, dato che sì, gli Stereophonics l'hanno intitolato My Friends, che si trova in Inghilterra e proprio oggi compie gli anni. Ci sta seguendo in streaming. Quindi ciao Roberto, questa canzone per te, Stereophonics. Ciao Roberto, buon compleanno. My Friends. Let me introduce questa bellissima canzone degli Stereophonics la dedichiamo appunto al tuo amico, che non ricordo il nome, Roberto. Quindi ancora tanti cari auguri, Roberto. E a proposito degli Stereophonics, diamo anche qualche notiziola, sì, perché tornano dopo 4 anni di assenza. Wow. Con il CD Graffiti on the Train, che uscirà il 12 marzo. Per la prima volta in 15 anni, l'anno scorso non sono andati in tour, dice appunto Jones. Quando ti fermi e lasci che la tua mente si apra, le cose arrivano da sole. Infatti poi, vedi, sono ritornati con questo CD Graffiti on the Air. Visto? On the train, perché on the air? Sul treno sono. L'ho capito, a me veniva on the air, non lo so perché. Vabbè, perché siamo on air in questo momento. Vabbè, dai. Vai, allora... Il disco, lo diciamo, è stato anticipato da 2 singoli. Sì, In a Moment, pubblicato a metà novembre, e Indian Summer, in radio e online, da venerdì 1 febbraio. Quindi già da un mesetto circa. Entrambi i video sono stati scritti e diretti da Kelly Jones. Gli Stereophonics sono la prima band firmata direttamente dall'etichetta di Noel Gallagher, la Sour Mash. Wow, che pronuncia che ha Giuseppe. Sì, anch'io sono stato in Inghilterra, dai. Ah sì, è stato in Inghilterra, giustamente. Quindi adesso... Ho studiato al Cambridge School Institute. Ma stai zitto, va. Stai zitto che è meglio, dai, che è meglio. Molto, molto, molto. Continuiamo con la bella musica e saluto su questa bellissima canzone di Biagio Antonacci il mio carissimo amico Gaetano, che in questo momento ci sta ascoltando. Ciao Gaetano. Ciao. Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te, anche se una signora per bene ignora le mie lacrime. E le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa fa: no signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no, non vivo più senza te. Anche se tanti papaveri rossi come sangue inebriano. Non vivo più senza te, anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre a mare. Sarà che il vino cala forte, più veloce del sole. Sarà che sonno è come un dolce che non riesce a evitare. Sarà che ballano sta pizzica. No signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no. Signora no. Le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa fa: no signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no. Succedono le cose, poi succedono. Il mondo è un buco piccolo, ci si ritrova. Anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me. Non vivo più senza te. Anche se la solitudine è nera e non è sera. La solitudine è sporca e ti divora. La solitudine è il suono che si sente senza te. Thank you. tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see you. So beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say. Di Bruno Mars, beh, sbarcherà in Italia per un'unica data, The Moonshine Jungle Tour. L'appuntamento è per il 26 ottobre al Mediolanum Forum di Assiago, quindi manca poco anche per questo appuntamento con Bruno Mars, vero? 26 ottobre manca poco. Non vediamo l'ora, perché anche lui, insomma, è molto interessante come artista. Pensa che a 2 anni di distanza dal successo di Do Whoops Hooligans, ho detto bene, caro Giuseppe? Do Whoops and Hooligans. Oh mamma mia, adesso questo mi tocca pure correggere. Il disco di debutto 39 volte platino, il cantautore ha pubblicato lo scorso dicembre il nuovo Hanardo, dillo tu te. An Orthodox Jukebox. Ok. Mars ha vinto un Grammy nella categoria Best Male Pop Vocal Performance. Sì, presentato al Saturday Night Live, quindi questo spettacolo americano seguitissimo, il nuovo album racconta la libertà stilistica raggiunta dal giovane talento della scena pop contemporanea. Questo album rappresenta la mia libertà, dice, ha dichiarato Bruno Mars e Billboard DJ. Ciao, bene, anche te vedo che sei messo bene con le paperozze. Vabbè, dai, ogni tanto la papera ci vuole. Sì. Sono io in studio a scrivere e a registrare quello che preferisco, dice appunto Bruno Max. An Orthodox Jukebox vede la partecipazione di importanti produttori, da Mark Ronson, ricordiamo, di produttore di Amy Winehouse, la mitica Amy, e Jeff Busker, Fun Kenny West JC, da Emily Hain a Diplo de Mia Usher. Insomma, bene, ma voglio dire una cosa, no? Sì. Noi stiamo parlando di Bruno Mars, sì. No, Bruno Max.

took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking up, shaking. Can't separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking. Of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind. And get me waking up. Di Caro Emerald, Tangled Up. Carina, bella, divertente, mi piace. Giuseppe, come va? Tutto bene? Sì. Siamo quasi pronti per cominciare con il nostro appuntamento, con la nostra rubrica Happy Cinema. Sì, la nostra rubrica per tutti gli appassionati di cinema. E cosa vogliamo fare? Lanciamo la sigla, Jerry? Lanciamo la sigla, sì, dai. Vai con la sigla, andiamo! Che bella sta sigla, ragazzi! Bellissima, guarda, proprio. Ci mette proprio, come dire, carica. Molta, molta, molta carica. Allora. E allora, Jerry, partiamo. Di cosa parliamo oggi? Partiamo con il primo classificato tra i tre film più visti anche di questo weekend. Sì. Perché devi sapere, è stato al primo posto anche la settimana scorsa. E parliamo del nuovo principino della commedia, sì, perché ancora è piccolino, ha fatto il primo film da regista, però secondo me crescerà molto. Ed è lui, ha avuto sempre tantissimo successo questo weekend, ha incassato 3.333.000 euro. Uh-huh. E settimana scorsa più di 4 di milioni, per cui 7 milioni di euro, molto successo ha avuto al botteghino questo film. Ed è lui, andiamo con il trailer. Andiamo, partiamo, devo andarlo a vedere questo film, mi sa. C'era una volta una principessa che faceva sognare il suo popolo, era la nonna. E questi sono gli articoli su di lei. Questi invece sono gli articoli di mamma. Questo è l'articolo su di me. Per portare oggi una principessa in prima pagina c'è un solo modo. La principessa Letizia deve innamorarsi di un disoccupato povero, ignorante, grezzo e volgare. Dove lo trovo un povero? Lo trova, lo trova. Ehi, suo peggio Rocci! Come vive? A scrocco. Non la prima, la seconda, gira verso all'anno. Bene così, boh, sono arrivato, grazie. Ma visto chi è? Sono il ciambellano di corte, la principessa Letizia vi invita a cena. Ti posso dare un bacio? Ricevi. Io lo faccio male. No, ve lo voglio dire, vi faccio vedere proprio i canguri a motore. Quelli là proprio fanno... Quelli che fanno... Tu sai montare un cavallo? Cioè, se me lo dai già montato è meglio, perché sennò finisco mi imbroglio con i pezzi. È un fratello di Dio, non lo voglio nemmeno come fidanzato finto. Me ne occuperò io e trasformerò la bestia in, diciamo, un principe abusivo. I veri amici si vedono nella cattiva, ma soprattutto nella buona sorte. Ti voglio presentare mia cugina, Jessica Guagliaruno. Buongiorno. Piacere. No, scusate, l'ultima volta si hanno fottuto il braccialetto. Ed eccoci tornati. Eccoci tornati, quindi, come avete sentito, il principe abusivo di Alessandro Siani si piazza al primo posto dei film più visti. E lui stesso dice che questo progetto risale ai tempi di Benvenuti al Sud, dove è stato anche protagonista, ed era interessato a raccontare un'altra storia sostituendo l'argomento nord e sud con il tema, ahimè, al giorno d'oggi molto contemporaneo, della ricchezza e della povertà. E lui dice che questo script è stato molto importante per lui, perché aveva in mente di farlo proprio in questa maniera. Quindi il neoregista Siani vanta nel suo cast, appunto, a parte lui, Alessandro Siani nei panni del principe abusivo, Sara Felberbaum, che interpreta la bravissima principessa, Serena Autieri, la cugina dai modi popolani, che secondo me è molto divertente veramente, e nei Dulcis in Fundo Christian De Sica nel ruolo del ciambellano di corte. E Christian è veramente molto, ma molto divertente. Già il padre, quindi una curiosità di Christian De Sica, il padre, il mitico Vittorio De Sica, aveva interpretato lo stesso ruolo nel Conte Max. Devo dire, Jerry, che questo script è stato fatto, per tutti quelli che l'hanno visto, senza parolacce. Quindi Alessandro Siani vuole lanciare questo nuovo modo di fare commedia, di fare cinema, senza parolacce. Devo dire che ha un impatto straordinario, veramente. A parte che, appunto, anche i bimbi possono seguire i suoi film, eccetera. Certo, direi. E molto bravo Siani, al primo posto, meritatissimo veramente. Allora mi sa che dovrò andarlo a vedere al cinema, così almeno. Certo, è ancora nelle sale per fino a quando? Per qualche periodo, almeno un'altra settimana, un altro weekend. Perfetto, allora mi devo organizzare. Anzi, ci andiamo assieme, dai, così poi ci andiamo assieme. Io l'ho visto già, però con te vengo volentieri di nuovo. Va bene, grazie Giuseppe, gentilissimo. Proseguiamo tra poco con un altro film che ha vinto due Oscar all'ultima, appunto, kermesse degli Oscar. Sì. E ha vinto l'Oscar per miglior attore non protagonista. Sì. E l'Oscar per miglior scenografia originale. Bene. E andremo a scoprire quale. Ne parleremo quale. dopo. Esatto. Continuiamo sempre con la bella musica. Vi ricordo che siete sempre all'interno di Semplicemente Insieme, con la rubrica Happy Cinema, Cinema Felice, insieme a Jerry e insieme a Giuseppe. Sono io. Presente. Andiamo presente. Avanti, allora continuiamo con la musica e poi naturalmente continueremo ancora a parlare di altri film, insomma, in uscita. E se poi capissi che tutto uguale a prima e come prima mi sentissi inutile. Un bel posto insieme a spasso, tra questo mondo e un altro, per trovare l'universo adatto al nostro spazio, ogni giorno più stretto, per contenere i sogni tutti dentro ad un cassetto. Ed ecco perché scappo, ora ricordo e scappo. Ho solo tanta voglia di sentirmi viva adesso. Yeah. die, and you can't get another try. Something inside this heart has died. You're in ruins. Ed eccoci qua, siamo tornati sempre all'interno di Semplicemente Insieme con naturalmente Happy Cinema. Giuseppe, allora? Sì, allora adesso parleremo appunto di un film, lo faremo commentare da una nostra amica da Palermo, un'altra appassionata di cinema. E appunto, come abbiamo anticipato poco fa, ha vinto due Oscar e sarà un nuovo cult del regista di questo cinema, perché è il mitico e grande Quentin Tarantino. Mica bau bau micio micio, come si suol dire. Esatto. Un nome prestigioso, importante. Un nome prestigioso, ha uno stile tutto suo ovviamente di fare cinema, quindi ci sarà un po' di sangue sparso. E appunto la nostra amica si è avventurata a vedere questo film, lo faremo commentare a lei, a Caterina Terranova da Palermo. Ma prima ascoltiamo il trailer. Andiamo. Django, dimmi una cosa, quanto ti piace fare il cacciatore di taglie? Un sacco mi piace. Siamo una bella squadra. Qual è il tuo piano, Django? Liberare mia moglie. A liberare la gente sono bravo. Che ti interessa se la trovo? Non avevo mai ridato la libertà a nessuno. Mi sento responsabile per te. Che faremo? Calvin Candy. Il padrone di Candyland. Se permettete, con tutto ciò che è di mia proprietà, faccio quello che mi pare. È confermato che tua moglie è a Candyland. Sei sul serio libero? Sì. Cioè tu vuoi vestirti così? Fluido è più importante che veloce. E più importante che fluido è preciso. Mi piace come muori. Oh. Ho passato la vita qui, a Candyland, circondato da facce nere. Tutto quello che vedete è di mia proprietà. Non sono colpito. Ne ho sentite su di voi. Centro. Non mi quadrano questi due. Hanno fatto un sacco di miglia. Passato un sacco di guai solo per quella ragazza. Ciao, piccola peste. Ma che gli farai mai alle donne tu? Ti prendono per il culo. Il tuo capo se l'è un po' presa per le ragazze. È che io sono più abituato agli americani di lui. È ora di liberare tua moglie. È quello che faccio. Giocherò sporco. Non uscirete vivi da questa contea. Figli di Troia! Senza dubbio. Eccolo qua, insomma, con di grande impatto questo film. Ne parliamo assieme a Caterina Terranova da Palermo. Ciao Caterina! Ciao Giuseppe, ciao Jerry! Ciao, ciao! Come stai? Tutto bene, grazie! Allora, come ti è venuto in mente di andare a vedere questo film? Carissimo Giuseppe, come mi è venuto in mente? Mi è stato suggerito da un amico. Ah, bene. Perché noi femminucce non è che possiamo andare a vedere sempre le solite commedie. E quindi ti sei avventurata in qualcosa di nuovo? Sì, sì, ogni tanto bisogna andare controcorrente, bisogna avvicinarsi a dei nuovi generi. Solitamente andiamo a vedere sempre il film che ci piace, invece ogni tanto bisognerebbe conoscere qualcosa di nuovo. Bene, Caterina, tu sei una grande appassionata di cinema, no? Adoro andare al cinema. Prima andavo soprattutto per evasione, adesso mi piace anche capirne un po' di più. Benissimo, allora vediamo un po', scopriamo qualcosa in più di questo film. Ci vuoi raccontare la trama? Ma certamente. Allora, intanto dobbiamo dire che il film si ispira ai vecchi western, i famosi western, spaghetti western, come li hanno definiti gli americani. Sì. La trama è molto interessante. Innanzitutto il film si articola nel Texas, siamo a metà del XIX secolo, esattamente nel 1858. Ho capito. Bella la fotografia, un Texas ora innevato, ora scaldato dal sole, e vi è un noto cacciatore di taglie, Giuseppe. Sì, ai tempi si cacciava molto le taglie, insomma. Chi era questo cacciatore di taglie? Allora, ma tu sai chi sono i cacciatori di taglie, Giuseppe? No, chi sono? Raccontaci un po', Caterina. I cacciatori di taglie sono coloro che vanno alla ricerca dei fuorilegge. Hai presente quel famoso volantino Wanted Dead or Alive? Esatto, sì. Ebbene, praticamente uno dei protagonisti di questo film è Christoph Waltz, che nel film è praticamente il dottor Schultz, un noto cacciatore di taglie. Sì. E in poche parole, mi sa che Christoph Waltz, che è un attore austriaco, abbia vinto un Oscar per questo film, no? Esatto, perché la sua interpretazione è stata veramente magistrale. Mm-hmm. E allora questo cacciatore di taglie è alla ricerca di due fuorilegge, sono i famosi fratelli Brittle. Okay. Cosa succede? Che ovviamente per riconoscerli si avvale della collaborazione di Django. Django è uno schiavo di colore, perché appunto siamo prima della guerra civile, quindi vi è ancora la schiavitù. Sì. E lui, conoscendo i fratelli Brittle, praticamente viene liberato dalla schiavitù. Sì. Ovviamente il dottor Schultz si accorge subito delle sue abilità, perché intanto è un uomo molto carismatico, molto abile con le armi, e poi appunto riconosce questi famosi fuorilegge. Ho capito. Lo libera dalla schiavitù. Sì. E diventano molto presto degli amici. Molto interessante, vediamo come va a finire. Eh sì, diventano degli amici, però Django nasconde un suo piano personale. E qual è questo piano personale? Liberare sua moglie, Brunilda. Brunilda. Sì, sì, una bellissima donna, trattasi di Kerry Washington, che interpreta questo ruolo, e anche lei è una schiava di colore e si trova prigioniera all'interno di una lussuosissima tenuta, la tenuta di Candyland. Ah, molto bello il nome, Candyland. Sì, esatto, Candy, dal cognome del proprietario, Calvin Candy. Interpretato da? Un amatissimo del pubblico femminile. Chi è l'interprete? Leonardo DiCaprio. Ah, certo, anche Jerry è amante di Leonardo DiCaprio. Come no? Hai voglia. Bel ragazzone. Sei rimasto forse a Titanic ancora. Esatto. sono rimasta un po' indietro, però vabbè, dai. Andiamo avanti, Caterina, vediamo come va a finire. Affascinante anche in questo film. Sì. Seppure praticamente è il proprietario di questa tenuta ed è assolutamente razzista, in quanto ha praticamente dei campi di cotone dove questi uomini di colore vengono praticamente sfruttati, umiliati, e tra questi si trova anche la moglie di Django, appunto la famosa Brunilda, che bisogna liberare. Ecco perché Django poi rivela a Schultz che il suo scopo è quello di essere aiutato anche in questo suo, diciamo, sogno. Okay. Di ritrovare la moglie. Vogliamo dire il finale? Come va a finire? Aggiungiamo subito al finale. Arrivati in questa tenuta, ovviamente i due inscenano un piano, ma un piano che praticamente fallirà. Fallirà perché il capo della schiavitù è astuto anche lui, e quindi si accorge che in realtà i due erano lì per un altro motivo, ossia quello di ritrovare Brunilda. Per cui praticamente, come si dice, succede uviva Maria, Giuseppe. Oh signore, sì. Vediamo cosa succede. Niente. Succede l'opera, Giuseppe, parliamoci chiaro. Sì, ma mi ascoltatori, sa, c'è, mi sa che è il genere proprio di Tarantino questo. Sì. Per cui praticamente ci identifichiamo tutti nell'eroe Django, si spara, spargimento di sangue. Però praticamente c'è un po' una certa spettacolarizzazione della violenza, in quanto praticamente vengono uccisi tutti coloro che praticamente erano a favore della schiavitù. Ho capito. E poi c'è lieto fine, perché ovviamente il nostro caro amico Django riesce a riabbracciare la sua Brumilda. Ah, quindi una sorta di happy end. Esatto. Esplode tutto con la dinamite. C'è da dire anche questo, quindi oltre il sangue, l'esplosione finale. C'è anche un po' di esplosione, insomma. È un po' di esplosione, esatto, Giuseppe. Quindi carico di action. Sì, indubbiamente non possiamo dire che non sia così, per cui non ci si annoia. Beh, il genere è proprio quello, quindi non può che essere così. Ma hai anche qualche curiosità, Caterina, riguardo questo film? Ma sì, mi sono documentata. Vediamo. Allora, innanzitutto, spesso quando si parla dei film si parla anche di anacronismi, no? Ci sono a volte delle cose che stonano all'interno di un film. Nel caso di Django, praticamente possiamo citare che a Candyland ad un certo punto si vede un busto di una dea egiziana, della dea Nefertari. E praticamente questo è un anacronismo, perché questo busto è stato ritrovato solamente nel 1912, mentre praticamente nel film siamo a metà del XIX secolo. Ah, molto interessante. Sì, poi ad esempio poco fa io ho citato la dinamite. La dinamite viene scoperta, praticamente più che scoperta, viene inventata da Alfred Nobel nel 1867, e quindi non esisteva nel 58. Ho capito. E poi qualche curiosità sugli attori, ce l'hai? Ma sì, io devo essere sincera, ecco, questo è un mio parere personale, al di là diciamo di Waltz, che insomma, come abbiamo detto prima, ha vinto anche l'Oscar per la sua interpretazione. A me è piaciuto tantissimo Samuel L. Jackson, che praticamente interpreta il capo della schiavitù all'interno di Candyland. Sì. Io ho seguito una sua intervista, praticamente questo è il quinto film che lui fa insieme a Tarantino, quindi comunque un volto molto noto nei film di questo regista. Uno tra i preferiti, insomma, di Tarantino. Sì, sicuramente, deve essere sicuramente così. E praticamente gli viene chiesto, insomma, un suo parere sul ruolo interpretato, e lui dice: io credo di aver interpretato il ruolo del negro più odiato del cinema, e se io sono riuscito a rendere questa idea, sicuramente avrò svolto bene il mio lavoro. Io vi dico che lui l'ha svolto benissimo il suo lavoro, perché lui praticamente è un uomo di colore e praticamente rinnega le proprie origini, addirittura rinnega anche il colore della propria pelle, e perché lui per salvare se stesso, Amoni, diciamo già verità, ecco. Per salvare se stesso, cosa fa per salvare se stesso? puntini e praticamente si schiera a favore dei bianchi, e trattando i neri come se fossero praticamente persone assolutamente non affini a lui. Ho capito, quindi grazie Caterina del tuo intervento qui a Happy Cinema, sei stata molto esaustiva. È stato un piacere. Quindi ci sentiremo prossima settimana, perché andrai a vedere altri film, no? Eh sì, non vedo l'ora, così ve li potrò raccontare. Ho capito, benissimo Caterina, bene, grazie bene. Molte. Grazie Caterina di essere Terranova. Stata con noi. Grazie a tutti voi, buon proseguimento. Grazie, ciao, ci risentiamo Caterina. Naturalmente mercoledì, sempre all'interno di Semplicemente Insieme, con Happy Cinema, con Giuseppe e naturalmente con la nostra cara amica Caterina. Grazie a voi, non mancate, ciao alla prossima, ciao. E allora Giuseppe? E allora, abbiamo visto Django Unchained, andremo a vedere tra poco le altre due posizioni, andremo a scoprire il podio dei film più visti durante il weekend. Perché mi guardi così, Jenny? No, come ti guardo, Giuseppe? Sorpresa. Sorpresa, no. Avremo un film al secondo posto che secondo me... Ti piacerà? Sì, ti piacerà perché è un film drammatico, ecco, ma appunto. Soprattutto romantico. Romantico, sì, io sono una romanticona, quindi sì, in effetti, forse mi piacerà. Scusami, nel romanticismo c'è sempre il dramma, purtroppo. No, quella non mi piace proprio, il dramma proprio no, non mi piace per niente. E adesso continuiamo allora noi con la bella musica, è una canzoncina bella, però la devo dedicare a due carissimi amici proprio simpatici, devo dire che oggi mi trattano benissimo, e siete proprio, siete tu, Giuseppe. Grazie. E il mio carissimo amico qua che sta con me in regia, che è Simone. Grande questa Simone. La dedico proprio tutta a voi. Non verreg più proprio, non verreg più veramente. Basta, non vengo più. Abbasso e Ale. Non te regge più. Abbasso e Ale. Non te regge più. Abbasso e Ale con le canzoni, senza fatti e soluzioni, l'immunità. Non te regge più. La clandestinità. Non te regge più. La sposa in bianco e il maschio forte, ministri puliti, buffoni di corte, ladri di voti. Superpensioni. Non te regge più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commendatori, diete politicizzate, evasori legalizzati. Non tregge più. Auto blu, sangue blu, mozzarelle blu, pillole blu, amore blu. Pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Things off the ground, it was up, up and away. around and it was up, up and away. Oh, but it's right hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. To get things off the ground and it won't up, up and away. But still it's way hard to remember that on a day like today when you're all argumentative. You've got the face on. Ed eccoci qua, siete sempre in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme con la nuova rubrica Happy Cinema. Adesso bentornati. Continuiamo, vediamo adesso cosa c'è in programma. Sì, allora, al secondo posto dei film più visti durante il weekend. Sì. Pensa, ha incassato 825.000 euro, una cosina così. Allora, è un film, sì, è un film che ti interesserà tantissimo. Sì. Ed è Anna Karenina di Joe Wright. Sì. Il regista Joe Wright. E ascoltiamo il trailer. Andiamo. Andiamo ad ascoltare il trailer. Mi sono sposata a 18 anni. Ma non era amore. Vostro marito è un sant'uomo e tutti noi dobbiamo sostenerlo per amore della Russia. L'amore romantico sarà l'ultima illusione del vecchio ordine. Conosci da molto il conte Vronsky? È un ricco e bello ufficiale di cavalleria. Ballate con me. Devo metterti in guardia su una cosa. In guardia? Potresti inavvertitamente dare occasione di parlare di te in società. Deve finire tutto. Se avete considerazione per me, ridatemi la pace. Non può esserci pace per noi. Solo miserie o la più grande felicità. È questo l'amore. Siamo stati legati da Dio e questo legame si può spezzare solo con un delitto contro Dio. È successo qualcosa? Non qualcosa, tutto. Sarebbe peccato aiutarti a distruggere te stessa. Indulgere al desiderio sensuale è un uso errato di qualcosa di sacro. L'uomo che non governa la propria moglie non può andare oltre nel governo. Anna non è una criminale. Ma ha infranto le regole. Lasciami. Lasciare la mia vita sarà rovinata. Credi che ti lascerò avere mio figlio? Tu sei depravata, una donna senza onore. È questo che vuoi? Lo sai ciò che vuoi? Io ti amo. Perché? Non si chiede perché in amore. Non si chiede perché in amore, Jerry. Questo è un film che devi andare a vedere per forza. Ci devo andare, sì, sì. Il dramma avvinghiato con il romanticismo, ovviamente. Bello, bello, dai, devo andarci. Dai, ci andiamo assieme. Andiamo a vedere tutti questi film, dai. Ci facciamo un giro, insomma. Ok, perfetto. Allora, Jerry, qualche informazione su questo film? Sì. Ci sono stati 9 trasposizioni, quindi figurati, nel cinema di questo famoso romanzo di Tolstoy, che appunto la cui più famosa è quella degli anni 30, con l'interprete principale Greta Garbo. Allora, raccontiamo un po' la trama. Anna è la moglie di Karenin, interpretato da Jude Law nel film, alto funzionario dello zar che lei lascia, quindi Anna, poiché infatuatisi di Vronsky, che è interpretato da Aaron Johnson, un altro belloccio del cinema, ufficiale di cavalleria, bello ma vile. Il film di Wright, cara Jerry, si rifà ai grandi film del passato, quindi non so se ricordi la scena del ballo, mi ricorda tanto Il Gattopardo. Se tu... Bello, ecco, Il Gattopardo, poi l'ho visto, bellissimo. E quindi il film va visto perché è bello per finezza, grazia, attenzione ai particolari e interpretazione eccellente da parte di Keira Knightley nei panni di Anna, ed è una versione nuova, originale ed è fresca, con tante innovazioni. Su tutte le innovazioni c'è la recitazione volutamente teatrale dei protagonisti. Una curiosità di questo film, Jerry. Sì, dici tutto, vogliamo sapere tutto. Sì, perché io ti vedo, sei... Sì, proprio, guarda, ti sto ascoltando, sono curiosissima, è certo, beh, direi. Ecco, allora, praticamente il film è stato girato in un unico teatro di posa. Quindi cosa ha fatto il regista? Ha intrappolato, in certo senso, tutti gli attori in questo teatro di posa, allestendo 4 o al massimo 5 set, e li ha fatti rimanere là per tutto diciamo il tempo della produzione del film. Quindi non gli ha fatto avere un contatto con la realtà esterna. Mm-hmm. E quindi in questo modo i protagonisti sono entrati nella parte. Quindi questa una curiosità riguardo il film. Ah, però hai capito bene, grazie Giuseppe, grazie. Quindi vallo a vedere, Anna Karenina di Joe Wright, gli interpreti principali, li ricordiamo pure, sì. Keira Knightley nella parte di Anna, appunto, Jude Law e Aaron Johnson. Ah, bene, due bene, belloci bene del cinema. Wow, Jerry, quindi devi andare per assolutissimamente forza. Devo proprio andarci. Sì. Quindi anche oggi noi concludiamo con Anna Karenina e l'appuntamento con il nostro Happy Cinema. Sì. Ricordiamo, Jerry, sì? Voglio ricordare solo una cosa. Al terzo posto nel podio c'è Gangster Squad, che è questo poliziesco con un linguaggio, un look, montaggio contemporaneo, però ambientato negli anni 40 di Los Angeles. Mm-hmm. Quindi si conquista il terzo posto e quindi abbiamo finito con il podio dei 3 film più visti della settimana. Quindi con Happy Cinema noi ci ritroveremo naturalmente mercoledì prossimo. Ci sai dire già qualcosina su di cosa parleremo? Hai qualche... Sì, proprio domani